Venerdì prossimo, 3 febbraio alle 18 al Centro Sociale della Pace, qui in Via del Pratello a Bologna, verrà presentato il libro Niente da dimenticare, verità e menzogne su lotta continua, edito da Interno 4 e scritto da Guido Viale, con cui siamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Allora Guido, il tuo libro racconta ovviamente, come si capisce già anche dal sottotitolo, alcuni frangenti della storia di lotta continua, con una prima parte, se vogliamo, anche un po' più personale. Sì, dunque, il libro è diviso in due parti, uno verità e l'altro menzogne. La seconda parte, menzogne, è nient'altro che la ricostruzione del processo per l'omicidio Calabresi, che io avevo seguito direttamente alla fine del secolo scorso, raccogliendo e rivedendo un pochino, tagliando dove c'erano ripetizioni, gli articoli che avevo scritto durante quel periodo. Ed è destinato a smontare completamente in maniera contestato, la cui sentenza finale era già scritta, dico fin dall'inizio, cioè fin dal giorno dell'omicidio Calabresi, non dal giorno in cui hanno arrestato Sofri Bonpressi e Pietro Stefano. L'avevo rimesso insieme per pubblicarlo l'anno scorso, perché era il 50° anniversario dell'omicidio Calabresi e prevedevo, come di fatto è successo, un diluvio di rievocazioni che trattassero lotta continua come organizzazione terroristica responsabile di tutto il male degli anni di piombo. Poi ho visto, intanto, che il libro era molto sottile, ma che era sbagliato smontare questo processo senza far vedere in qualche modo, nei limiti delle mie capacità, che cosa era stata lotta continua e con che cosa avevano cercato di denigrare, criminalizzare e degradare con quel processo. E quindi ho ripreso anche lì un pochino del materiale che avevo scritto nel corso degli anni dopo la fine di lotta continua quell'esperienza, più un testo che è l'unico veramente nuovo, gli altri sono tutti un po' testi vecchi, rimaneggiati, ritagliati, in parte anche rivisti. L'unico pezzo nuovo è una relazione che io ho fatto a un convegno sul 68 all'inizio dell'anno scorso, in cui cerco di delineare un quadro complessivo della mia personale interpretazione di cosa sono stati quegli anni, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché il 68 è stato visto come un arco di tempo abbastanza lungo, un fenomeno globale, anzi secondo me il primo vero processo di globalizzazione dal basso, non dall'alto come quello che stiamo vivendo oggi nella storia del mondo. Tu hai militato a Torino ed è anche un po' lì che si è avuta la saldatura tra lavoratori e studenti? Sì, dunque, giustamente hai detto che questa prima parte ha un connotato molto personale, che deriva da due fatti. Uno, che le esperienze che io ho vissuto, quelle soprattutto più interessanti della nascita di lotta continua, le ho vissute a Torino. E la seconda è che Torino è stato effettivamente il punto di nascita di lotta continua, ma anche uno dei punti delle manifestazioni più visibili e evidenti del contenuto fondamentale del 68, che è appunto stato l'incontro fra operai e studenti intorno a delle tematiche comuni che li hanno in qualche maniera appunto accomunati e in molti casi fusi in un'organizzazione unica. Limite di questo libro è ovviamente che è molto torinocentrico. Lotta continua è stata una cosa molto più grande, che ha investito centinaia di città e di paesi in tutta Italia, con delle caratteristiche anche molto differenti, anche se tutte sostenute da uno stesso spirito che io cerco di mettere in evidenza, che è la solidarietà, l'interesse e la curiosità e l'ascolto delle persone diverse da noi nel tentativo di scoprire e convergere verso degli obiettivi comuni e di comune interesse per tutti. Il 12 dicembre del 69 scoppia la bomba a Piazza Fontana, vengono individuati dei capri espiatori all'inizio, appunto Valpreda e Pinelli. Pinelli viene defenestrato e non si riesce a ottenere verità e giustizia su quello che accade, addirittura nel corso dei processi si parlò di malore attivo. Lotta continua comincia una campagna mediatica per, come dire, avere verità su quello che succede, e si arriva nel 72 all'omicidio di Calabria. Bresi, ecco, qua è, come dire, è stata una bufera giudiziaria che si è scatenata su lotta continua. Beh, la bufera giudiziaria si è scatenata soprattutto a partire dal 1988, quando sono stati arrestati Sofri Bonpressi e Pietro Stefano. Va detto che fin dal giorno dopo dell'omicidio Calabresi le attenzioni degli inquirenti si sono appuntate tutte su lotta continua, con una interpretazione delle cose assolutamente paradossale, cioè cioè Lotta Continua, che aveva condotto per 2 anni una campagna contro il commissario Calabresi, anche in termini e con linguaggi feroci, e che oggi ci dispiace di aver usato in quel modo, soprattutto perché ne sono andati di mezzo non solo lui, ma anche la famiglia, i figli e la moglie e i parenti, eccetera. Ma lo scopo di quella campagna era portare il caso Pinelli in tribunale, perché la magistratura milanese aveva deciso di archiviarlo, prima ignorandolo e poi dicendo che era un fatto accidentale, eccetera. Cosa che siamo riusciti a fare, tant'è vero che Calabresi ci ha denunciato e poi è stato costretto a chiedere l'annullamento, la sospensione del procedimento, con un classico meccanismo che anni dopo avremmo chiamato berlusconiano, cioè la ricusazione del giudice, perché le cose si stavano mettendo molto male per lui. Tant'è vero che su denuncia di Licia Pinelli, la moglie di Pinelli, era stato aperto un procedimento contro di lui per omicidio. La uccisione del commissario Calabresi ha temporaneamente interrotto entrambi i processi, il primo e il secondo, ed è paradossale che noi, che uscivamo diciamo vincitori da quella vicenda, stavamo uscendo vincitori da quella vicenda, al giorno dopo dell'omicidio siamo diventati invece i principali accusati, mentre Calabresi, che forse era una delle persone più esecrate d'Italia, è diventato un eroe nazionale per il semplice fatto di essere stato ucciso. Tu, come hai già anticipato nel libro, ricostruisci anche un po' le menzogne che sono state dette e perpetrate. Ci puoi fare un esempio? Beh, clamoroso. Cioè, la cosa più paradossale è che per tutti i testimoni dell'epoca, compresi la relazione dell'autorità di polizia e giudiziaria dell'epoca, al volante della macchina di quel comando che ha ucciso il commissario Calabresi c'era una donna bionda. Tutti i giudici che si sono succeduti, che sono più numero sterminato, più di 50, nelle sentenze che hanno emesso, hanno sempre trascurato questo fatto, tranne due che si sono sentiti in dovere di entrare nel merito della cosa, e una ha detto che i testimoni evidentemente avevano confuso i baffi neri e la zazzera nera di Marino per i capelli biondi dell'autista, e un altro, interpretando un'altra testimonianza che aveva visto i due uomini, le due persone del comando scendere da un'auto e salire su un'altra che li ha accompagnati nella fuga, ha sostenuto che una delle due persone era una donna bionda con un bel sedere, e questa è la testimonianza originaria, e il giudice l'ha tradotto in una persona grassoccia che evidentemente era Marino. Per annullare le testimonianze di 6 testimoni che hanno visto una donna bionda al volante di quell'auto, eccetera, è stato completamente cambiato da Marino, ma su suggerimento evidentemente di chi l'ha preparato per diverse settimane di seguito prima della sua deposizione, la dinamica dell'omicidio. Cioè, invece di una marcia avanti da cui era sceso poi l'uomo che ha sparato per poi risalire sulla macchina, si è inventato una marcia indietro da un posto in cui la macchina sarebbe stata posteggiata, che avrebbe dovuto andare in direzione opposta a quella del traffico, cosa evidentemente in una situazione di grande traffico impossibile. Ma la cosa più clamorosa è che Marino non ha mai saputo individuare la persona che l'aveva ospitato nei giorni precedenti l'omicidio e la persona con cui si sarebbe incontrata subito dopo l'omicidio. Ha indicato varie persone, tutte quante sono state scartate perché incompatibili o dotate di un alibi inflessibile, eccetera, tant'è vero che è rimasto assolutamente ignoto che cosa abbia fatto un secondo prima dell'omicidio e cosa avrebbe fatto un secondo prima dell'omicidio e un secondo dopo l'omicidio Marino e il suo complice. Queste sono le cose più clamorose, poi ce ne sono centinaia di altre. Cioè, nell'automobile del delitto sono state trovate degli oggetti di cui Marino non ha mai saputo spiegare l'origine, compresa la totale mancanza di impronte digitali, sia sue o del suo complice che dei proprietari precedenti, proprietari dell'automobile, mentre Marino non ha mai detto né di aver usato i guanti né di aver cancellato le impronte digitali sull'auto. Altre cose del genere. Un libro per, come dire, anche diciamo correggere quella la versione che è passata alla storia, che appunto è quella giudiziaria. Il tuo libro in questi giorni, insomma, sembra molto di attualità a proposito del tema del giustizialismo che stiamo vedendo, ad esempio, attorno al caso di Cospito, insomma, i dibattiti che ci sono in Italia. Che impressione ti fa? No, dunque io non chiamerei giustizialismo quello che è stato esercitato nei confronti di Sofri Bompressi e Pietro Steri, perché la giustizia non ha niente a che fare. Questo processo è stato un gigantesco falso organizzato nel corso degli anni e portato a termine nel momento in cui i carabinieri hanno avuto a disposizione una persona disposta a accusarsi e a rendere falsa testimonianza. Il giustizialismo invece è un termine che si applica a quando le sentenze della magistratura sono troppo rigide, rigorose, o eccessive rispetto alle accuse o alle prove che vengono portate a sostegno della colpevolezza degli imputati. Tipico è il caso di Cospito, no? Il quale è imputato per dei reati minori che non prevedono assolutamente l'ergastolo, gli è stato dato sostanzialmente perché è stato trattato alla stregua di un capomafia e addirittura oltre all'ergastolo gli è andato anche il 41 bis, cioè un vero e proprio strumento di tortura che è stato adottato per far finta di combattere contro la mafia. Ora si esercita la tortura verso persone condannate per atti di mafia e poi veniamo a scoprire che il capo mafia viveva libero e felice facendo una vita assolutamente normale, addirittura incontrando in festini presso la borghesia migliore di Palermo insieme a un capo della polizia e un medico che lo curava. Allora secondo me la mafia si combatte andando a vedere chi la protegge, cioè la politica e alcune parti componenti sicuramente le forze dell'ordine, e non torturando le persone che sono già state incarcerate, assicurate alla giustizia e giudicate. Tu stai già facendo delle presentazioni, non so se hai avuto modo insomma anche di confrontarti con nuove generazioni. Che immagine pensi sia rimasta di Lotta Continua? Le presentazioni che hanno un successo assolutamente imprevisto, nel senso che abbiamo riempito un intero teatro con 500 persone e a Roma 300 e a Torino abbiamo dovuto lasciarle fuori perché non c'era spazio per farle entrare. Sono frequentate prevalentemente da persone della mia età o di pochi anni o di qualche decennio inferiore, cioè persone che in qualche maniera o hanno partecipato alla Lotta Continua o sono state toccate direttamente da quelle vicende. Però c'è una componente consistente di giovani in tutti quanti che evidentemente sono interessate a sapere come sono andate le cose e che non ne sanno, si scopre, non ne sanno assolutamente niente, cioè tra scuola, informazione e disinformazione eccetera, il potere in vigore è riuscito a cancellare completamente quell'epoca, se non a lasciarne un'immagine, un cliché assolutamente falso e sviante, che è quella degli anni di piombo, in cui sono unite sia le bombe che hanno cosparso l'Italia e insanguinato l'Italia per un decennio, sia gli episodi della lotta armata che sono seguiti a quelle bombe, non le hanno certo precedute, e facendone un unico mazzo e attribuendo sostanzialmente la responsabilità di quello alle organizzazioni, al movimento e all'organizzazione della sinistra. Quello che vorrei accentuare è che nella messa in opera di quelle bombe, oltre ai servizi segreti, la manodopera è stata fornita prevalentemente da organizzazioni fasciste e naziste, legate o addirittura provenienti dall'MSI, cioè dal partito da cui provengono gli attuali governanti del nostro paese. E quindi diciamo quelle bombe sono servite, cioè hanno preparato il terreno nel corso degli anni, grazie alla distorsione che ne è stata fatta, a degli eredi che ne hanno raccolto di fatto, ne stanno raccogliendo di fatto i frutti. E con questo cerchio amaro che si chiude, io ti ringrazio e ricordo. No, io ringrazio te e tutti gli ascoltatori. Ecco, ricordo la presentazione venerdì 3 febbraio alle 18 al Centro Sociale della Pace. Niente da dimenticare, verità e menzogne. E ci sarà anche l'avvocato Gamberini a parlare con me, che è stato intanto l'avvocato del processo, del non mai realizzato processo di revisione di questa cosa, ma che oggi è una delle principali figure in prima linea nella difesa delle ONG che sono perseguitate dall'attuale governo come da quelli precedenti. Grazie mille Guido. Grazie a voi. Buona giornata.